sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Tu novia dejaste, ella no sabe con quién te escapaste. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica. A todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir: mujer bruja, el que con lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el que con lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Corta miradita larga. Si te pongo a andar, tú te me cacharra. La vida no es na' pa' pasar la bla bla. Nace pa' morir, queriendo decir: atrévete, bruja, muy mala, muy perra, muy jabra, cadabra. Esta es pa' mí, así que ladra. Creen en un dios, pero no tiene palabra. Mira cómo afino, agarro y te va a tocar a ti. Sorta las amarras, no hay leona sin garra. No hay barro sin agua, pa' poción buena la que te desgarra. Por el cielo, vamos a volar. Sin miedo, amo pa' allá. Mujer bruja, el que con lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el que con lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta. Yo no sé portarme bien, nada bien. Lola Indigo, Mala Rodríguez, Yara Music. Siamo tornate in diretta su Radio Lotto tutto l'anno. Ciao amiche! Ciao! Ciao! Allora, stasera siamo in diretta io, Marta, Ari e Carlotta, facenti vece di Ambrosia, che è la nostra collettiva, che ha esatto. Studiato la puntata di stasera. Esattamente, Ambrosia è un gruppo, un agglomerato, una cosa che si riunisce da oramai un bel po' di anni in maniere, come dire, varie ed eventuali. Ci siamo occupate di tante cose nel corso di questi tanti anni. Tra le tante cose di cui ci siamo occupate, in particolare l'anno scorso, di tecnologie. Abbiamo fatto un percorso perché ci interessava in primo luogo a noi capire come stavamo utilizzando le tecnologie e in particolare le tecnologie digitali, e abbiamo lavorato per saperne di più. Il risultato, così ve lo diciamo, è che già avevamo un blog su autistici e abbiamo spostato la nostra mailing list pure su autistici, e ora comunichiamo tra di noi o via mailing list o tramite Signal, che vi ci sentiamo di suggerirvi. Sì, viva, viva, viva. Viva. Va bene, allora, prima di cominciare, facciamo le comunicazioni di servizio? Esattamente. Allora, vabbè, intanto i nostri contatti, perché lo diciamo sempre, questa radio ci piace che sia partecipata e quindi se ci volete scrivere non una di meno Milano @gmail.com Esattamente. oppure contattateci su tutti i nostri mille mila social, su Instagram, su Twitter, su Facebook, dove ci trovate come non una di meno Milano simili. Poi Esatto. abbiamo un blog dove Sì. tutte le nostre puntate vanno in podcast. Carlotta, vuoi dirlo tu? Non una di meno milanoblog.wordpress.com. Lì su trovate un bellissimo pallozzo che dice radio tutto l'anno e se ci cliccate sopra arrivate a tutti i nostri podcast. Pallozzo è un termine tecnico, Un sì, che abbiamo termine imparato nel percorso. tecnico. Un termine tecnicissimo. Esatto. Poi abbiamo un canale Telegram, questo lo dico io perché lo leggo, che è t.me/nonunadimenomilano, ma comunque se cercate nonunadimenomilano ci trovate facile. E niente, più o meno questo è tutto, mi sembra. Abbiamo detto Penso tutto. di sì. Vogliamo ricordare quali, come dire, rubriche abbiamo in atto? Ah, certo, meravigliose. Abbiamo in atto, va bene, oltre a, facciamo un piccolo momento serio, oltre a chiedervi tutti i vostri contributi e le vostre narrazioni e le vostre testimonianze su questa quarantena, se la state passando a casa, al lavoro, con chi, quali problemi, quali difficoltà, gli sbirri che fermano la gente per caso, eccetera. E quindi questo sempre valido, ovviamente, ma se in questa quarantena sentite anche una vena più romantica o sessuale, La primavera è nell'aria. esattamente, potete scrivere alla nostra posta del cuore, sempre gli stessi contatti e noi cercheremo, o noi o poi cercando aiuti, cercheremo di rispondervi. Possiamo magari già preannunciare che dalla posta del cuore della volta scorsa, in cui poi eravamo finite a parlare di post-pornografia e di pornografia etica e sostenibile, ecco, forse riusciremo ad avere Valentine che ce ne parla in maniera più precisa. Sì, Quindi abbiamo dei cerchiamo anche aiuti. suggerimenti poi. L'altra cosa, l'altra grande rubrica che abbiamo in atto è dedica una canzone. Non so se si chiama veramente così, ma Però è chiaro, così è chiaro, è così è chiaro, didascalico, è sì. didascalico, sì, è un po' come il pallozzo, sono un po' termini tecnici. E quindi se avete qualcuno a cui volete dedicare con tutto il vostro cuore, o anche con astio, non per forza con amore, Soprattutto con astio. una canzone, noi la metteremo in onda per voi. Esatto. Volevo, scusatemi, fare un'altra comunicazione di servizio e poi dire l'ultima cosa seria, quantomeno per questo primo slot. Allora, la comunicazione di servizio è che anzi, grazie ai miracoli della tecnologia, che ancora per me è misterioso come io riesca così a far funzionare, in questo momento siamo in diretta su Radio Lotto tutto l'anno, ma anche su Radio Virus. Così, perché ci amplifichiamo e condividiamo ed è tutto molto Benissimo. bello. Cercate anche Radio Virus che comunque vi tiene compagnia in questi giorni di quarantena. Esattamente, esattamente. E l'altra cosa invece seria che volevo ricordare prima di partire invece con la posta del cuore, Certamente. è che oggi, 25 marzo, è giorno di sciopero generale. E quindi prima di tutto volevamo portare la nostra solidarietà e il nostro amore a tutte le persone che oggi hanno scioperato, ma anche e soprattutto a tutte quelle che non hanno potuto. E magari ricordare brevemente a Confindustria, che pare non ricordare, non capire come mai oggi 25 marzo sarà quindicesimo, ventesimo giorno di quarantena, siamo in sciopero generale. Ebbene, siamo in sciopero generale perché siete delle merde. Sì, in estrema sintesi direi questo, e in meno sintesi per dirvi che nonostante la dichiarazione del fatto che sarebbero state chiuse un sacco di aziende non essenziali, vi ricordate, dicevamo, nella città metropolitana di Milano sono 300.000 circa i lavoratori e le lavoratrici che sono costrette a uscire di casa per andare a fare cose appunto non essenziali. Ecco, dopo il decreto dell'altro giorno che avrebbe dovuto lasciare a casa pagata però un po' di gente, il numero di persone che andava a lavorare è sceso a 250.000. Benissimo. Che sembra un filo, una presa in giro. Ecco. Benissimo. Va bene, dopo che abbiamo fatto queste doverose macumbe contro Confindustria, io passerei senza ulteriore indugio alla posta del cuore. Certamente, molto bene. Molto bene. Allora, intanto volevo dirvi che io nel mio cuore lo sapevo che da posta del cuore passavamo a, come dire, la versione audio di rimorchiare disobbedienti in un minuto proprio. Che brutta immagine, Marta, scusa. Però qui tu stai facendo delle supposizioni. No, è che è il mio background, me lo sento proprio. Cioè, bisogna riconoscersi nelle cose, quindi. Ora, quindi, per la rubrica La posta del cuore abbiamo intanto la prima canzone con dedica, che ci piace benissimo. Moltissimo, che è un po' anche la prima e l'ultima, perché poi invece tutti gli altri contributi sono molto, tutti molto attenenti al tema della serata. Quindi, mi appresto. Quindi iniziamo emozionandoci. Iniziamo emozionandoci. Allora, ovviamente dedica anonima, ve la leggo, e la dedica dice: ciao Simo, hasta siempre, Bubamara. E la canzone che ci hanno chiesto di dedicare è Banditi di Assalti Frontali. Cuoricioni. Cuoricioni, godetevi questo momento, perché probabilmente non avrete mai più assaggio di musica da politica mista da qui a per sempre. E quindi, compagni, a meno che non ci siano altre dediche. A meno che non ci siano altre dediche. Però questa la facciamo con il cuore anche noi. Va bene. Ci ascoltiamo Banditi e torniamo tra poco. Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena e faccio al cielo. E cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, canne mozze in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa, a caccia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere e a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari, e faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Questa faccenda, in alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda, in alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda. Eccoci, scusate, siamo tornate con i cuori che battono per gli assalti frontali. Speriamo che appunto Simo abbia potuto ascoltarla e goderne come ne abbiamo goduto noi. Esattamente. Ora, prima di andare nel cuore, diciamo così, della puntata, come sempre ricordiamo che appunto stare a casa per alcune persone è un invito, per altre pare un po' una minaccia, in particolare per chi vive situazioni di violenza domestica. In questo caso noi, come sempre, ricordiamo che i centri antiviolenza, pur con tutta la fatica del momento, stanno continuando il loro preziosissimo lavoro. Se andate sul sito internet di Dire, adesso ho avuto un momento di vuoto, mi sei lanciata così, direcontrolaviolenza.it, esatto, non mi ricordo mai se è it o com, ed è it, direcontrolaviolenza.it. trovate i numeri di tutti i centri antiviolenza sparpagliati sul territorio nazionale, visto che trasmettiamo chi ci è entrato nel microfono, che bello, c'è qualcuno che è venuto a trovare. Vabbè, ma a parte questo, visto che trasmettiamo da Milano con le interferenze del caso, diamo il numero di CADMI, Casa delle Donne Maltrattate, ed è 02-55-01-5519. 02-55-01-5519. Se andate sul sito di CADMI trovate anche i contatti, loro rispondono anche alla mail, lo dico perché è chiaro che non, per tutte e non sempre è facile telefonare se appunto si è costrette chiuse in casa. Sì, io poi ricordo anche che ovviamente c'è un numero nazionale, magari anche più facile, che è il 1522, però noi ci teniamo comunque e sempre a ricordare che non tutti i centri antiviolenza sono uguali e che i centri dell'area rete Dire applicano una metodologia femminista, la fuoriuscita dalla violenza, a cui noi teniamo in modo particolare. Aggiungo ai contatti di servizio quelli di obiezione respinta, che invece ci dà supporto anche in questa fase complicata di super emergenza sanitaria rispetto a tutto ciò che attiene all'aborto, l'interruzione volontaria di gravidanza. Le compagne di obiezione respinta hanno aperto un canale sosaborto_covid-19 su cui circolano informazioni quasi in tempo reale rispetto alla fornitura del servizio di interruzione volontaria di gravidanza territorio per territorio, e hanno anche un numero di telefono attivo 24 ore su 24 che si può chiamare per avere informazioni e supporto, e il numero è 331-96-34889. A questo proposito ricordo solo per tutte che gli ospedali attualmente a Milano che effettuano interruzione volontaria di gravidanza sono la Mangiagalli, San Paolo e San Carlo. E basta. E basta. Ecco. Va bene, possiamo entrare nel vivo della puntata. Sono solo le 19:18. Ottimo, presa. Allora, adesso fatemi fare questo teatrino, sono molto fiera e orgogliosa di essere in diretta questa sera con due delle quattro autrici, favolose autrici di Smagliature Digitali, Corpi, Genere e Tecnologie, Arianna e Carlotta, ciao! Ciao! Ciao! Siamo sempre noi! Siamo sempre noi! Scusate, non ho resistito. No, è stato molto bellissimo, bello. Bellissimo, ci fa sentire così di avere più identità, anche se con la stessa tuta da giorni. In pigiama. Ma con la camicia sopra anche per trasmettere in radio. Ovvio. Io mi sono sentita di mettermi con la camicia. Ma che brava! Mettere in radio, sì. Rossetto, rossetto. Aggiungo un pezzo, ho messo il profumo. Wow. Questa cosa capisco che stile! Sì. Questo è veramente proprio. Bene, possiamo parlare di Smagliature Digitali a questo punto. Sì, ma in parte ne stavamo già parlando perché in qualche modo una delle cose che Smagliature Digitali prova a mettere a tema e ci sembrava che insomma in questi giorni fosse utile continuare a parlarne è che cosa succede ai nostri corpi nel rapporto con le tecnologie, tutte, e anche la radio è indubitabilmente una tecnologia, ma in particolare forse in questi giorni appunto con le tecnologie digitali spesso si vive una e si racconta una dimensione dicotomica, vi sarebbe un mondo online smaterializzato e virtuale e un mondo offline invece corporeo e vivo, ecco quello che noi proviamo a dire in tutto il testo che non è nostro, sono una serie di contributi da persone diverse e meravigliose che salutiamo se ci stanno ascoltando, vi amiamo molto. Torneremo a fare delle cose insieme, però tanto neanche nel fare il libro ci eravamo mai viste di persona, quindi ora non cambia molto. E no, dicevo però, quello che cerchiamo di fare nel libro è di mettere un po' in discussione questi confini e dirci in qualche modo, come ci stava dicendo Arianna, che anche nel parlarsi in radio ci può essere quella emozione di un primo incontro che ti fa mettere il rossetto e il profumo. E anche ci... cosa che in qualche modo ci stiamo chiedendo in molto in questi giorni è anche cosa vuol dire praticare queste tecnologie con uno sguardo transfemminista. Come nascono queste tecnologie? Che impronta di genere potremmo dire hanno le tecnologie che usiamo tutti i giorni e come possiamo appropriarcene in modo che sappiano costruire delle collettività che liberino i saperi, che possano permetterci di condividere le nostre esperienze piuttosto che appunto invece far prevalere la logica proprietaria, chiusa, eteronormativa con cui molte delle tecnologie con cui abbiamo a che fare sono state immaginate e vengono anche utilizzate. Sì, mi sembra un po', come dire, che questo sia un po' il nostro animale guida. Ormai per forza di cose da settimane, no? Questo è un po' lo spirito, la ragione per cui abbiamo cominciato a costruire i percorsi che come non una di meno Milano stiamo portando avanti in questi giorni di quarantena, con l'idea però che siano, come dire, che questo uso, se vogliamo anche forzato, della tecnologia non sia solo una costrizione, ma che sia il momento del ripensamento, no? Nella chiave di cui parlava Arianna. Mi sembra che, come dire, stiamo cercando di farlo anche, come dire, dal punto di vista strettamente pragmatico in questa direzione. Non per niente questa radio abbiamo un dominio che è appunto questo strumento che mi ha messo a disposizione dai compagni, dalle compagne, dai compagni di autistici e di UNIT che ringraziamo sempre, ma anche, come dire, stiamo cercando davvero nella pratica di liberare la tecnologia che utilizziamo e ricostruirla e ricominciare ad utilizzarla in modo liberato. Sì, su questo faccio solo una piccola annotazione, perché appunto in questi giorni forse più che in altri momenti in Italia si parla di internet e di mezzi per andare su internet, sull'internet, di vario genere, tipo sull'internet, ed è però, quindi si colmano anche, pensiamo alla pubblica amministrazione, l'INPS, per esempio, questo è uno dei miei altri grandi demoni, ha dichiarato che provvederà a proporre una procedura semplificata per ottenere il famoso PIN. Se voi avete chiesto il PIN dell'INPS, sapete che metà ve la mandano via mail e metà ve la mandano via posta a casa, che voglio capire chi è che vuole accedere col gufo di Hogwarts te lo mandano. Comunque, al di là di questo, faranno una procedura semplificata perché è chiaro che molta gente avrà bisogno nelle prossime settimane di accedere all'INPS, e tu dici ci potevate pensare prima, ma al di là di questo è anche chiaro come vi sia poi appunto poca riflessione. Per esempio il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che che fa i suoi annunci in diretta Facebook, ora lì il problema non è tanto una questione di, come ogni tanto sui nostri giornali è stata presentata, di decoro dello Stato e di senso dello Stato, ma è che, lo ricordiamo, Facebook è una piattaforma privata il che Facebook. estrae valore dai dati che noi gli diamo, e quindi obbligare le persone ad andare su quella piattaforma a vedere la diretta forse non è la mossa più furbissima del mondo, ecco. E io D'altro lato, aggiungerei. no, scusatemi, volevo solo ricordare che comunque abbiamo tipo ancora il Grande Fratello consigliere del governo, per cui va, Ottimo come punto, dire. Marta. E questa questione tocca uno anche dei miei demoni, che è quello dell'accesso poi alla rete delle Sì. competenze Esatto. online. Perché appunto una delle cose che dobbiamo ricordarci, anche investigare di più e considerare, è che non tutte, tutti e tutto hanno accesso in termini anche solo di on e off alla rete, cioè vuol dire avere la possibilità di una connessione nella vita di tutti i giorni. Non tutte, tutto e tutti, quando poi hanno una connessione, hanno gli spazi, la libertà, il tempo di sfruttare le potenzialità di quella connessione, e quindi in qualche modo un ragionamento sui divari, sulle diseguaglianze digitali, ora più che mai andrebbe aperto e fatto, perché è evidente che in un momento come questo, ma lo era già anche prima, internet, abitare la rete, gli spazi della rete vanno a comporre gli spazi della cittadinanza. E Sì. quindi chi ne è esclusa, escluso, evidentemente è una questione che ci riguarda. Sì, e qui diciamo che ci troviamo di fronte a un grande bivio, che o chiudiamo l'internet, una volta per tutte, Potrebbe essere o un'ipotesi. ce la date gratis. Sì. Allora, Assolutamente. scusatemi, io prima però di farci esplodere per davvero questa bolla sul divario nell'accesso alle tecnologie, all'internet, volevo suggerire di far sentire alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, un piccolo stralcio dell'introduzione di Smagliatore Digitali che ha letto per noi Ludo, che Grazie baciamo, Ludo. grazie Ludo, Grazie Ludo. baci e abbracci dalla quarantena, e così poi possiamo continuare ad andare avanti a parlare. Che ne dite? Mi sembra una buona idea? Perfetto. Andiamo. Grazie. Smagliature digitali, da pagina 11. Dal forno a microonde, al telefono, alla pillola anticoncezionale, alla robotica e ai software, la tecnologia ha un ruolo nella strutturazione dei ruoli sociali. E l'emarginazione delle soggettività che non aderiscono alla norma cis etero bianca da parte della comunità tecnologica ha una profonda influenza sul contenuto, il design, la tecnica e l'uso di artefatti tecnologici. Il modo in cui le diverse ricerche femministe hanno affrontato, decostruito ed elaborato l'esclusione di alcune soggettività rispetto ad altre dal mondo tecnologico, nelle strutture sociali, nelle identità individuali e collettive, nelle rappresentazioni simboliche, costituisce in parte uno dei fili che legano le riflessioni delle studiose impegnate in questo campo. La prospettiva femminista sullo studio sociale delle tecnologie ha in particolare posto l'attenzione non solo sul potere delle istituzioni sociali nel dare forma alla tecnologia, ma anche sul potere dei soggetti di appropriarsene. Gli artefatti tecnologici sono aperti a diverse interpretazioni e il loro significato viene costruito attraverso un processo di negoziazione tra agenti. Non hanno un unico significato o uso stabilito nel momento della loro ideazione. Al contrario, sono aperte a diverse interpretazioni, in base alle quali le soggettività intervengono negoziandone il significato e ridefinendole. Da pagina 14. La tecnologia è sempre il prodotto di un'organizzazione sociale della quale mira a riprodurre i rapporti di potere e le categorizzazioni. E il gesto di decostruirla è un gesto politico, proprio perché spezza questa catena di riproduzioni, inserendo variazioni, consapevolezza, posizionamenti e materialità. Rinunciare a utilizzare gli strumenti del padrone, quindi, non significa rinunciare alla tecnica, ma all'organizzazione dalla quale è prodotta e che ricrea. Chiuse virgolette. Mi sentirei allora di concludere che se le tecnologie sono parte dei mezzi di produzione, riproduzione e consumo della nostra società, immaginare nuove relazioni che passino attraverso la riappropriazione collettiva di questi strumenti e la decostruzione dei rapporti di forza presenti diventa un momento di trasformazione politica fondamentale. Questo passaggio va però svolto con un occhio critico ai limiti di un progetto che non vuole esaurire in sé ogni orizzonte di lotta, né proporsi come bacchetta magica ai problemi del presente. Come conclude l'introduzione di Smaiature, quello che ci serve è un pensiero complesso che non sia consolatorio, un pensiero stupendo. Eccoci, siamo tornate. Eccoci qua, grazie Ludo per aver letto un pezzettino di Smagliature. Smagliature, non l'abbiamo detto, è di Agenzia X, che ringraziamo sempre per aver dato spazio a questa raccolta appunto di saggi e di testi che affrontano i vari temi delle tecnologie, un po' come stavamo facendo ora e come credo un po' tutte e tutti stiamo provando a fare appunto nelle nostre case, accorgendoci di cosa funziona e di cosa no. Sì, benissimo. Arrivati a questo punto l'avevamo promesso e quindi adesso tocca sbroccare su questa cosa. Prima eravamo state moderate. Sì, faremo un piccolissimo sbrocco, ma piccolo, perché a tutto questo vorremmo dedicare poi una puntata, lo annunciamo. Esatto. E questo è anche un appello, perché se avete esperienze, racconti, temi che volete sottolineare, come dire, noi siamo prontissime ad ascoltarvi. Lo sbrocco, scusami, riguarda... Carlotta, ricordo la mail, non una di me, certo. milano@gmail.com. certo, scriveteci o mandateci dei vocali o fate insomma quello che volete, dei disegni anche. E cercheremo di raccontarli. No, lo sbrocco riguarda uno dei luoghi dove forse in questo momento, quello di cui parlava Arianna rispetto alle possibilità di accesso alla rete, ma non solo, gli intrecci tra mondi online e mondi offline si fanno sentire forte, che è quello della scuola e della didattica a distanza. Sono tantissimi problemi, uno dei quali è che 1 su 5 degli studenti delle nostre scuole non sta riuscendo a star dietro alla didattica a distanza, perché o non ha degli strumenti da accedere, non in tutte le famiglie ci sono lo stesso numero di computer o tablet quanto le persone, o perché non ha gli spazi in cui farlo, non tutti gli studenti hanno una stanza in cui potersi mettere a fare questo, o perché non hanno la connessione internet, o perché magari non hanno banalmente gli strumenti per capire come accedere alle molteplici piattaforme che le scuole stanno utilizzando per questo scopo. Un tema intanto legato ovviamente all'accesso, al divario all'accesso, come diceva prima Arianna, e che come dire, ancor più si farà sentire, no? Nel mondo della scuola, che teoricamente invece dovrebbe essere il luogo di massimo abbattimento della disuguaglianza, no? È invece questo periodo di vacanza forzata, la chiamo vacanza perché mio figlio continua a sostenere di essere in vacanza, però è chiaro che impatta fortissimo, no? Su chi ha gli strumenti, il background per potersi permettere di far continuare a studiare i figli, perché poi il tema è questo, no? Rispetto alle prime settimane dove il tema era convincerli a fare i compiti a casa, adesso cioè, stiamo davvero alla sostituzione quasi della didattica, perché intanto evidentemente la scuola non era pronta a questo, e quindi questo significa che molto spesso i genitori si devono sostituire all'istituzione scolastica, con tutto quello che ne consegue in termini appunto di disuguaglianza e via discorrendo. Poi ci sono anche i problemi dei privilegiati e delle privilegiate tipo me, che comunque sbroccano, no? Perché c'è la moltiplicazione, tanto, ma magari il mio ora avesse una piattaforma pubblica che tutte le scuole possono usare, no, ovviamente il tutto lasciato al buon senso o alla follia dell'autonomia scolastica. E quello che accade sostanzialmente è che non solo gli devi far fare i compiti ai figli, non solo devi stare dietro all'organizzazione del tutto, ma metà delle robe arrivano su WhatsApp, l'altra metà sulla piattaforma di sto cazzo che gli insegnanti hanno deciso di usare, l'altra metà via piccione viaggiatore col cartaceo perché vuoi non fargli fare le tabelline di carta, poi c'è quello che usa Google Form ma non la piattaforma che usano tutti gli altri. Insomma, pure, come dire, se sei sul pezzo e ti dedichi a questa roba qua, puoi tranquillamente smadonnare tutto il giorno, come se non ci fosse un domani. Penso che nella call che faceva Carlotta prima, raccogliere anche appunto pensieri, stimoli, sbrocchi su questo, sarebbe anche carino raccogliere esperienze che potrebbero aiutarci tutte e tutti che ci confrontiamo su questo a fare i conti con questa situazione e, come dire, delle esperienze che potrebbero aiutare a comprendere come, per esempio, semplificare la comunicazione con gli insegnanti, capire anche quali potrebbero essere delle strategie che potrebbero aiutare i genitori, gli studenti, gli insegnanti, trovare anche magari delle pratiche che ci possano aiutare a capire come in questo caos sbrigliare alcuni nodi. Sì, perché poi comunque ci tenevo a ricordare che in tutto ciò 9 volte su 10 le famiglie, in senso ampio dette, comunque nel frattempo lavorano, quelle privilegiate sempre come me da casa in smart working, ma comunque 10 ore al giorno, però ci stanno pure quelli che, sempre maledetta Confindustria di prima, magari vanno a lavorare in fabbrica, ci sono quello che lavorano in tutti i servizi di pulizia specializzata, che forse non ringraziamo mai abbastanza per, come dire, l'abuso del loro lavoro di questo periodo. Ci sono, c'è tutto il personale sanitario, c'è, per cui, come dire, non è che ci stiamo dedicando a tempo pieno all'homeschooling, ma certo, evidentemente il tutto è davvero molto complicato. E prima appunto di pensare alla ricca puntata che su questo si potrebbe fare, anche raccogliendo gli stimoli che arrivano da fuori, e da chi sta in qualche modo vivendo le stesse cose che stai raccontando tu, sì, ma Marta, anche da chi sta dall'altra parte, gli insegnanti, esatto, le insegnanti. E io, se posso aggiungere, ma sul piano dello sbrocco e non sul piano di una riflessione situata, io direi anche che si sta anche sfruttando le competenze, le capacità gli studenti di stare online, cosa che spesso, sì, viene bistrattata, e su cui ci sono un sacco di retoriche, no, su questi ragazzi e ragazze che spegnerebbero il cervello una volta online, e io dico, non è che, però, se non avessero quelle competenze, quella capacità di navigare online, ora sarebbe ancora più complesso passare alla didattica online, quindi mi sentirei anche di dire che forse è il momento di abbandonare alcune delle retoriche che spesso vengono utilizzate per descrivere i ragazzi e le ragazze quando sono online, e anche abbracciare e anzi imparare da chi magari è più socializzato alla tecnologia di altri come si sta online. Questo così, però sul piano dello sbrocco. Cioè, se non dire, sento che siamo rilassate su questo tema. Vabbè. Per rilassarci un pochino, se voi siete d'accordo. Noi siamo sempre d'accordo con te, Ari, sempre. Wow, attenzione che me ne approfitto. Sono 20 anni che siamo d'accordo con te. Questo cuoricione, più di prima. Non è un pezzo che possiamo dire in realtà rilassa, però sicuramente è un pezzo che evoca e quindi ci dà dello spazio per dare aria ai pensieri e prenderci del tempo per riflettere. È un pezzo che di Jasmine Guffon, di cui io mi scuso già per la pronuncia. Guffon, grazie Marta di aiutarmi, che è una sound artist che ha investigato il suono rispetto alla sorveglianza online, e quello che mandiamo ora è un pezzo di questa sua ricerca e investigazione sui suoni attraverso una ricerca su quella che è la sorveglianza negli spazi online. Sì, subito dopo il pezzo, sempre invece per distendere, vi mandiamo volentieri, vi facciamo ascoltare volentieri invece un contributo che ci ha mandato Ilenia, che è una compagna di non di meno, attrice che collabora, che ci regala le sue capacità artistiche. Il pezzo è un pezzo che si chiama Para la Mujer Grande, The Great Woman, E niente, era solo per dire che lo mandiamo subito dopo il pezzo e poi torniamo da voi. Dunque, chi o cosa è la donna selvaggia? È la forza vita, morte, vita. È l'incubatrice, è intuito, è veggenza. È colei che sa ascoltare, è il cuore leale. Incita gli esseri umani a restare multilingue, spediti nei linguaggi dei sogni, della passione e della poesia. Sussurra nei sogni notturni. Si lascia dietro sul terreno dell'anima di una donna un cappello ruvido e impronte fangose che ricolmano del desiderio di trovarla, di liberarla, di amarla. Lei è idee, sentimenti, impulsi, memoria. La si è perduta e pressoché dimenticata per tantissimo tempo. È la fonte, la luce, la notte, l'oscurità e l'alba. È l'odore del buon fango e la zampa posteriore della volpe. A lei appartengono gli uccelli che ci rivelano segreti. È la voce che dice da questa parte, di qua. Ecco lei che tuona contro le ingiustizie. Ecco lei che gira come una grande ruota. È la fattrice dei cicli. Ecco lei che lasciamo a casa affinché la custodisca. Ecco lei da cui andiamo a casa. È la radice fangosa di tutte le donne. È quella che ci fa andare avanti quando pensiamo di essere finite. È l'incubatrice di piccole idee grezze e di accordi. È la mente che ci pensa. Noi siamo i pensieri che lei pensa. Dove è presente la donna selvaggia? Dove potete sentirla? Dove trovarla? Percorre i deserti, i boschi, gli oceani, le città. Va nei barrios. E nei castelli vive tra le regine e tra le contadine, in sala di consiglio, in fabbrica, in prigione, sulla montagna della solitudine. Vive nel ghetto, all'università e nelle strade. Lascia per noi delle impronte in cui misurare i piedi. Lascia orme dovunque ci sia una donna che è terreno fertile. Dove vive la donna selvaggia? In fondo al pozzo, nel corso superiore dei fiumi, nell'etere senza tempo. Vive nella lacrima e nell'oceano. Vive nella linfa degli alberi. È dal futuro e dall'inizio dei tempi. Vive nel passato, da dove la convochiamo. E sta nel presente e ha un posto al nostro tavolo. Sta dietro di noi in fila e sta davanti a noi per strada. È nel futuro e torna indietro nel tempo per trovarci ora. Vive dove i morti vengono per un bacio e i vivi inviano loro preghiere. Vive nel luogo in cui si fa il linguaggio vive di poesia e percussioni e canto, è l'attimo che precede l'ispirazione che ci abbaglia, vive in un luogo lontano che si apre un varco verso il nostro mondo. La gente forse chiederà una prova della sua esistenza, essenzialmente chiede una prova dell'esistenza della psiche, siccome noi siamo la psiche, siamo anche la prova, ognuno di noi singolarmente è la prova non soltanto dell'esistenza della donna selvaggia, ma della sua condizione nel collettivo. Siamo la prova di questa ineffabile numen femminile. La nostra esistenza è parallela alla sua. Il fatto che siamo deprivate in sua assenza, che ci struggiamo 15 secondi quando siamo da lei separate, ecco le manifestazioni del suo passaggio. E niente, siamo tornate. Io ho pure fatto una cazzata col microfono, ve ne siete accorti, ma fa niente. Ma è il bello della diretta. È quello. O la birra, anche, non lo so. Vabbè, le due, le due. Le due. La birretta in diretta. Scusate. Io non sto neanche bevendo la birra, volevo dirvelo. È per quello. E niente, volevamo dire che prima, nel momento così piccolo sbrocco, non abbiamo detto una cosa che avremmo invece voluto dirvi. Forse lo saprete già, ma Non Una di Meno Milano ha lanciato un progetto che si chiama Fuori Classe, e uno dei claim è sempre col cellulare in mano, sì, ma per una buona ragione, a proposito di quello che diceva Arianna. In cui ogni giorno a mezzogiorno in diretta dal nostro profilo Instagram lanciamo delle brevi non lezioni di una mezz'oretta per provare a fare della didattica alternativa nel vero senso della parola, cioè provare a mettere dentro alle materie che si studiano nella nostra scuola dei pezzi di ecotransfemminismo, anche molto eco perché lo facciamo in collaborazione con Fridays for Future Milano, che va in onda con le sue lezioni alle 3 dalla loro pagina Facebook. Sì, sì. Poi una volta parliamo delle piattaforme che usiamo anche noi per trasmettere i nostri contenuti, ma un'altra volta. Ma perché noi il tunnel delle contraddizioni, come si sa, l'abbiamo arredato, e quindi esatto. A posto così. No, volevo aggiungere solo, primo, che tutti i podcast di Fuori Classe, esattamente come quelli della radio, li trovate sul nostro blog. E la seconda cosa che volevo dire, lo dico con grande orgoglio perché finora non l'abbiamo fatto perché io non ci riuscivo, ma questa sera, dopo la diretta, dopo la nostra playlist che più tardi vi presenteremo, rimandiamo anche in diretta radio i contenuti di una delle lezioni di Fuori Classe. Non partiamo dalla prima, ma partiamo dalla dodicesima per rimanere a tema, perché ieri Arianna ha giusto appunto ottenuto mezz'ora di non lezione su femminismo e tecnologie, e quindi più tardi rimandiamo la lezione completa. Bravissima Marta, e grazie che stai imparando a fare tantissime cose che condividi con noi. Ma è comunque, non è che sto imparando, resta tutto nel mistero delle cose che con un po' di magia e mistero. Brava, benissimo. A un certo punto funzionano e io non mi faccio delle domande. Ora manderei un pezzo, perché abbiamo parlato tanto, e un pezzo strano, un pezzo super mainstream, che però abbiamo deciso che mandiamo lo stesso, perché così un po', sempre per stare dentro la contraddizione e perché per interrogarci anche su quello che sta succedendo alla musica pop, alla musica mainstream di questi tempi. Non so, ci abbiamo in mente tutte e tutti quello che ha fatto Achille Lauro a Sanremo, e ora invece è il momento di Francesca Michelin e i Maneskin, direttamente da X Factor su Radio Lotto tutto l'anno. Però il pezzo è bello, le robe che dicono ci hanno convinte, e quindi ve li facciamo ascoltare. A tra poco. Ciao. Thank you. sembra che ci sputi. Oppure urli perché devi amplificare quattro versi muti. Sei già pezzo grosso solo dopo due starnuti. Ma il tuo concerto dura 15 minuti. Perché spaccare tutto, essere aggressivi? Cani che ringhiano ma con in tasca gli antidepressivi. E con gli altri parassiti criticare il prossimo per farci grandi. Ma sotto la foto mettere la cifra. Non è della mia natura farmi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura dire di amarci alla fine, amarci così male. Rivendichiamo per il corpo la libertà, ma critichiamo una ragazza che si veste come le va. Ci insegna anche la donna e madre, o una pin-up che guida male, ma il navigatore ha quella voce là dell'immagine servile con cui ci avete dipinte. Con il fatto di sentirci obbligate a essere spinte, usate il nostro seno ovunque, una cosa normale. Ma se allattiamo in pubblico non si fa, è immorale. Non è nella mia natura farmi fischiare per strada come se fosse un cane. Non è nella nostra natura dire di amarci alla fine, amarci così male. Siamo schiavi di una cultura patriarcale, la cultura del possesso, dove nessuno può più scegliere da che parte stare. Dove una madre è solo madre, una figlia è solo figlia, un uomo è solo uomo e l'amore è solo uno. E ho visto troppe mani non alzarsi in aiuto degli altri e diventare schiaffi. E non è un complimento urlare che bel culo. Ricorda, non ti rende uomo saper dare un pugno. Non è nella mia natura farmi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura dire di amarci alla fine, amarci così male. Non è nella mia natura farmi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura dire di amarci alla fine, amarci così male. Eccoci, siamo tornate. Siamo tornate e riprendiamo anche a il discorso che facevamo prima sul ruolo di internet nella vita che stiamo attraversando ora, provando a lanciare l'idea di raccogliere un pochino di link, risorse che sono diventate gratuite in questo periodo e che possono in qualche modo possiamo condividere e che possono essere interessanti per tutte e tutto noi in questi giorni. E uno dei link che volevamo condividere è il link del Women Make Movies, che è una distribuzione che si occupa di raccogliere film e documentari di registe donne, che ha un festival, il Women Make Movies Festival, che quest'anno, per questione di salute pubblica, non ci sarà in presenza, ma la casa di produzione ha deciso, di distribuzione, scusate, ha deciso di rendere i film e i documentari selezionati per il festival accessibili in streaming. Sì, altro, scusatemi, faccio un'entrata gamba tesa, poi ritorniamo a parlare di questo festival e dei film. Però un altro link che ci sentiamo di condividere subito è quello di aortafilms.com, che lancia questo progetto che si chiama Free Films for Quarantena. E ci tenevo a dirlo questa sera in questa puntata perché ricorderete che durante la puntata di venerdì la posta del cuore ci chiedeva cosa fare con gli amanti e le amanti lontane, e Carlotta a un certo punto suggeriva il porno condiviso. Abbiamo invocato Valentine aka Fluida Wolf e così, con questo potere delle streghe che ci caratterizza, giuro, senza averla chiamata direttamente, Valentine ci ha suggerito questo link. Come immaginate, i film scaricabili da questo, visibili gratuitamente in streaming su questo sito, sono film porno. Si tratta di delle produzioni queer e transfemministe veramente, veramente, veramente fighe. E quindi questa sera è uno dei regalini che vi facciamo, e grazie Valentine per il suggerimento. Grazie. Grazie e viva il potere delle streghe. Io ho fatto tutto quello discorsone senza dare il link, però, che era l'unica cosa utile che potessi fare. Torniamo al festival. Quindi torniamo un attimo al festival, così la bollita. www.wmm.com, womenmakemovies.com, ma solo l'iniziale. Comunque la ragione per cui tu non hai dato il link è che io te sono entrata a gamba tesa, non per... cioè, ma, col porno. Anche perché io perché... mi ero... ci sono priorità. Mi ero fatta prendere così, dall'entusiasmo del porno. E io aggiungerei che oltre a esserci dette, iniziamo a condividere delle risorse che abbiamo evocato con stregonerie o che, su cui ci siamo imbattute, abbiamo anche deciso di farci delle domande, ovviamente. Perché la pesantezza non ci abbandona mai. Esatto. E quindi ci siamo chieste, intanto appunto, come internet, che ora vogliamo gratis, a meno che non decidiamo di chiuderlo, può in qualche modo aiutarci, supportarci nella vita di tutti i giorni, e soprattutto quali sono le risorse che in qualche modo si sono quasi diventate più eque in questa fase che stiamo attraversando, perché sono state rese gratuite, ma ci siamo anche dette che conseguenze hanno. Allora, ci siamo chieste appunto il fatto che ci siano dei film che ora si possono vedere gratuiti online, per noi che ce li guardiamo è sicuramente una cosa molto bella, è un vantaggio, però ci siamo anche chieste dal punto di vista della produzione, per esempio nei contesti di produzioni indipendenti, che effetto ha. E quindi abbiamo rivolto la domanda a una nostra cara amica, una regista bravissima, Benedetta Argentieri, che amiamo tantissimo, che è una delle registe selezionate per il Women Make Movie Festival. Quindi bravissima, grande Benny. Brava Benedetta, se non a lei, a chi porre delle domande. Va bene, allora ascoltiamo le sue risposte, mi pare giunto il momento, giusto? Ciao Benedetta, grazie mille. Il tuo splendido documentario I Am the Revolution, in cui racconti storie di donne e rivoluzioni in Afghanistan, Siria ed Iraq, è stato scelto per il Women Make Movies Festival. Il festival però, abbiamo visto, per via dell'emergenza sanitaria non si terrà, ma è stato deciso dalle organizzatrici di rendere il film e i documentari selezionati visibili in streaming dal sito. Il sito l'abbiamo comunicato, lo comunicheremo dopo poi nel corso della trasmissione. Questo però ci dà modo di chiederti una cosa. Quali sono le possibilità, ma anche i limiti, presenti nel rendere fruibili film e documentari online per le produzioni indipendenti come la tua? Tu cosa ne pensi, soprattutto considerando un contesto come questo in cui i festival e le proiezioni in presenza vengono annullate? Allora, grazie mille a tutte voi. Il punto è che la possibilità... Quando uno fa un film cerca di fare un film perché le persone lo vedano, no? E tante volte noi vediamo come il cinema indipendente comunque abbia grandissime difficoltà nella distribuzione, l'abbiamo visto anche noi con appunto il nostro film, con I Am the Revolution. Non è semplice distribuire un film indipendente, anche perché spesso e volentieri sono utilizzati da... comunque film molto più grossi, di produzioni molto più grosse, e insomma che hanno dietro anche tanti sponsor. Detto questo, a me è piaciuta molto, soprattutto per questo periodo in cui siamo in quarantena, che il film sia fruibile. Noi come produzione non possiamo metterlo su YouTube, per esempio, perché comunque abbiamo fatto questo film anche con altri produttori che sperano che il film venga venduto, e quindi se viene messo su YouTube ovviamente questo non vale più, anche perché comunque ci sono delle ci sono anche dei costi di produzione che in casi quando si fanno comunque film lontani eccetera gravano particolarmente, quindi uno spera sempre di poter ritornare e di andare a budget, insomma diciamo che l'obiettivo è proprio questo. È ovvio che questo ha delle difficoltà, però diciamo che il momento è estremamente straordinario, e quindi credo che sia molto giusto avere comunque la possibilità di vedere tanti film diversi, ed è per questo che noi abbiamo subito accettato, perché ovviamente ce l'hanno chiesto se si poteva fare questa cosa. Detto questo, comunque questa è una delle tante iniziative che il mondo del cinema sta mettendo in atto. Infatti si trovano diverse librerie anche solo in Italia, no? di film eccetera, e credo che comunque questo sia anche un segnale molto bello che si sia presa questa decisione, ecco. Grazie mille Benedetta, vuoi dirci qualcosa in più sulle conseguenze delle produzioni indipendenti rispetto alla impossibilità di fare delle visioni in presenza, e quindi che rapporto anche in futuro ci potrà essere con la rete anche rispetto a possibilità di guadagno? diciamo che Netflix ha fatto da apripista, no? Per questa nuova maniera di vedere e di produrre i film, perché poi magari per i non detti lavori, insomma, diciamo che è tutto un po' uguale. Non lo è. È ovvio che le produzioni indipendenti sono quelle che hanno sempre sofferto di più, perché per ovvie ragioni, e quindi, insomma, diciamo che così hanno meno accesso. Una cosa che insomma, abbiamo visto negli anni, questi tagli alla cultura costanti, non solo in Italia, ma proprio in generale, hanno fatto in modo che ci fossero meno bandi, meno possibilità, no, per le produzioni indipendenti di riuscire a portare a termine il lavoro. Tante volte, o meglio, troppo spesso si comincia un progetto e purtroppo a volte non si ha la forza per andare avanti, oppure si deve aspettare degli anni prima di vedere finito il proprio lavoro. È molto complicato, ovviamente. Grazie mille, Benedetta. Allora, ricordiamo anche che chi vuole vedere il documentario insieme ad altri può andare al link che abbiamo detto prima del Women Make Music Festival. Grazie, Benedetta. Grazie. Eccoci. Siamo tornate. Grazie Benedetta, ciao. L'abbiamo già detto. E di nuovo complimenti. Brava. Brava. Niente, abbiamo delle amiche che spaccano. Sì. Per fortuna. Va bene. Allora, non so, ci abbiamo provato un pochino a vedere il bello e il brutto dell'internet questa sera. Non lo so se ci siamo riuscite. Però appunto rilanciamo anche con molte puntate future. Sì. E niente, noi sappiamo che siamo le 8, che abbiamo dichiarato che stavamo in diretta un'ora, invece ce ne freghiamo perché ci abbiamo ancora un po' di cosine da dirvi e quindi siamo in diretta ancora un po'. E niente, cosa volevo dirvi? Ah sì, volevamo raccontarvi questa cosa, che alla nostra chiamata a costruire una radio partecipata ha risposto una poetessa di Bologna, Dada Lupe, di cui abbiamo già sentito una poesia venerdì scorso e che ha continuato a condividere con noi quello che sta producendo in questo periodo, sempre come dire, come antidoto alla quarantena. E intanto Ari è caduta, tornerà, speriamo. E così, scusate, stasera va un po' così. E dicevo, Dada Lupe ha condiviso con noi nell'arco di questa settimana degli altri pezzi, per cui abbiamo pensato di mandarne uno a diretta. Questa sera vi mandiamo una poesia che si chiama Tecno Resistente contro il sistema Vaneficium, appunto di Dada Lupe, con le musiche di Leonardo Scarano. E questa poesia, come le altre che ci ha mandato e che appunto condivideremo nelle prossime puntate, rientra tra le iniziative del progetto ETRA, che a sua volta fa riferimento al manifesto OSMA. Il manifesto OSMA è un manifesto artistico, OSMA l'acrostico di ostentato, sentimento, mito, armonico, ed è un movimento poetico ispirato al leggo, perché sennò non lo saprei mai dire, ispirato al dadaismo, situazionista, ma non nichilista, bensì magico. E siccome noi, come ci teniamo sempre a ricordarlo, siamo le pronipoti delle streghe che non siete riuscite a bruciare, noi ci siamo sentite subito a nostro agio con le poesie di Dada Lupe. E niente, che faccio? La mando, così noi ne approfittiamo per provare a richiamare Arianna. Perfetto. E grazie Dada Lupe per mandarci tutti questi preziosi contributi. Davvero, grazie. Veleno. Beneficium. Beneficium. Thank you. facce da una levatissima faccia strapiombo, a proposito della quale Pausania precisa di non conoscere alcun luogo che si elevi ad una tale grande altezza. L'acqua del sottosuolo gola dunque, dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. Ecco, ciao. Ecco, eccoci. Siamo tornate. Proprio così. Va bene. Siamo tornate in realtà per gli ultimi momenti di questa bellissima e lunga diretta che intanto vi ricordiamo tornerà lunedì. No. Che giorno è oggi? Venerdì tornerà. Venerdì, benissimo. Vedete, questi sono gli effetti della quarantena. Io ero perfettamente convinta che oggi fosse venerdì. E invece... Ma convinta. Vedete. Il tempo. Potremmo anche pensare di fare una trasmissione sul tempo e come lo stiamo percependo. Perdendo. Potremmo fare una trasmissione su qualsiasi cosa, compagni. Deciso. Forse abbiamo bisogno di parlare con altre persone. Comunque, al di là di questo, adesso noi tra poco vi lasciamo, ma non vi lasciamo. No, non vi lasciamo, perché come tradizione, dopo i nostri sproloqui, vi regaliamo un'oretta di musica. Un'oretta di musica che a nostra volta ci ha regalato Lady J. Grazie. Che questa sera purtroppo non può essere in diretta con noi perché il lavoro fa male, e però ci ha comunque regalato questa oretta di mixtape. Ovviamente ha fatto un mixtape per evitare che io faccia dei disastri, come al solito con l'auto DJ. E questa sera, la cito testualmente, ci regala un mixtape che fa molto Leoncavallo del 2005, ma con amore. Che citazione. Sì, è un po' così. Prima Banditi, adesso Leoncavallo del 2005. C'è nostalgia nell'anima. No, ma c'è adolescenza soprattutto per quanto mi riguarda. Così questa quarantena... E quindi dicevamo appunto questa oretta di musica con le DJ. E poi appunto perché la tecnologia comincia piano piano a diventare mia amica, dopo l'oretta di musica vi dedichiamo altre due cose. La prima è un articolo che ci ha suggerito e che legge per noi una compagna del tavolo Terra, Corpi, Territori e Spazi Urbani di Non Una di Meno. E questa lettura è già stata condivisa dalla diretta di Transfemminonda ed è sostanzialmente tratta, liberamente tratta, da dei brani di una rivista online che si chiama Lundi Matin. Poi nell'audio più tardi sentirete tutte le informazioni più precise per andare a recuperare gli articoli e meglio conoscere Lundi Matin. E poi subito dopo, come abbiamo anticipato, mandiamo la lezione di Fuori Classe proprio a tema femminismo e tecnologia. Esattamente. Perfetto. Evviva, la lezione che ha tenuto Arianna, lo ricordo, perché siamo sempre noi con 27 cappellini. Siamo sempre noi. Va bene, io vi saluterei sì. ricordando l'appello alla posta del cuore, che ricordiamo è già diventata in un attimo rimorchiare disobbedienti, ma anche l'appello a scriverci per cose più importanti. La nostra mail è sempre quella, sempre non di meno Milano, @gmail.com, e basta, ci sentiamo in podcast da domani sul nostro blog. Se abbiamo fatto un po' di casino, potremmo citare la collettiva che citavamo all'inizio, che è un po', no, il claim di Ambrosia, no? È un casino, ma è un bel casino, e quindi ci perdoneranno se c'è stato un po' di casino. Speriamo sia stato un bel casino in questa puntata. Siamo un bel casino, mi sentirei di confermarlo. Sì, e appunto a questo punto torniamo venerdì, che non è oggi. Va tutto bene? Va tutto benissimo. C'è un altro pezzo di Assalti Frontali, peraltro. Con profumo, camicia, rossetti. Sì. Sì. Va bene. O venerdì... anche senza, se non vi va. Sì, facciamo una piccola anticipazione. Venerdì torniamo in diretta sempre con Ambrosia, con una puntata sulle carceri. Sì, e a questo proposito, appunto, se volete mandarci contributi, domande, anche richieste, noi siamo qui e vi leggiamo volentieri. Va bene. Baci, ci sentiamo venerdì. Baci. Ciao. Ciao. Ah, no, scusate. Noi perché non andiamo in onda il giovedì? Perché ci sono le compagne di Zam in onda su Radio Zam. E quindi prima di esatto, andare... Esatto, ascoltate niente. Loro. Ascoltatele domani. E noi invece ci risentiamo venerdì. Baci. Ciao. Ciao. Fammi sentire distante ciò che è più a cuore. Come, come into my life. Come, come stay with me. Nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Oh no, nobody loves me, nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work.

Ciao. Us. We'll be right back. cosa fantastica. La telefonata, sono innamorata, malata per te. Non capisco più niente, non vedo più la gente e non fa niente. Thank you. Che ho trovato nella rivista digitale Lundi Matin e che potrete trovare sul loro sito nella sua interezza, nell'originale in francese ma anche nelle traduzioni in inglese, spagnolo, portoghese, cinese, arabo, greco, tedesco. Lundi Matin è un giornale di informazione che si pubblica in internet ogni lunedì mattina dal dicembre del 2014 e che è diventato anche una rivista semestrale dal 2017. Il primo numero di questo giornale ha guadagnato la sua popolarità a partire dallo sciopero e dalle manifestazioni per il lavoro del 2016. Da quel momento il sito ha avuto circa 500.000 visite al mese. Ciascuna edizione di Lundi Matin mescola articoli di attualità con letteratura, analisi politica, giuridica, filosofica e sociologica. Dal maggio 2017 la rivista esiste anche su carta e le analisi e le riflessioni pubblicate hanno accompagnato il movimento dei gilet gialli. Il titolo di questo articolo è Monologo del virus. Cari umani, fate tacere tutti i vostri ridicoli appelli di guerra. Abbassate quegli sguardi vendicativi che mi riservate. Dissolvete l'alone di terrore con il quale circondate il mio nome. Noi, i virus, dal fondo batterico del mondo, siamo il vero continuum della vita sulla Terra. Senza di noi non avreste mai visto la luce, così come la cellula primordiale. Noi siamo i vostri antenati, allo stesso titolo delle pietre e delle alghe, e molto più delle scimmie. Siamo dunque dovunque siete e anche dove non siete. Peggio per voi se nell'universo vedete solo quello che è a vostra immagine e somiglianza, ma soprattutto smettete di dire che sono io ad uccidervi. Voi non state morendo a causa della mia azione sui vostri tessuti, ma della mancanza di cura dei vostri simili. Se non foste stati tanto rapaci tra voi, così come lo siete stati con tutto quello che vive su questo pianeta, avreste ancora abbastanza letti, infermieri, respiratori per sopravvivere ai danni che infliggo ai vostri polmoni. Se non aveste ammassato i vostri vecchi in quelle topaie e i vostri elementi validi in conigliere di cemento armato, non sareste a questo punto. Se non aveste mutato l'intera estensione fino a ieri ancora lussureggiante, caotica, infinitamente popolata del mondo, o meglio dei mondi, in un immenso deserto, per la monocultura dello stesso e del più, non avrei potuto lanciarmi alla conquista planetaria delle vostre gole. Se dall'inizio alla fine dell'ultimo secolo non foste diventati tutti copie ridondanti di una sola insostenibile forma di vita, non vi preparereste a morire come mosche abbandonate nell'acqua della vostra zuccherata civiltà. Se non aveste reso i vostri luoghi così vuoti, così trasparenti, così astratti, siate certi che non mi diffonderei alla velocità di un'astronave. Scusate, ma siete voi, che io sappia, ad aver inventato il nome di Antropocene. Vi siete intestati l'intero onore del disastro. E adesso che si compie, è troppo tardi per rinunciarvi. I più onesti tra voi lo sanno bene. Io non ho altro complice che la vostra organizzazione sociale, la vostra follia della grande scala e la sua economia, il vostro fanatismo per il sistema. Solo i sistemi sono vulnerabili, il resto vive e muore. La sola cosa vulnerabile è quella che tende al controllo, alla sua estensione, al suo perfezionamento. Io vi propongo un cambio di sguardo. Vi è un'intelligenza immanente alla vita. Non vi è alcun bisogno di essere un soggetto per disporre di una memoria o di una strategia, nessun bisogno di essere sovrano per decidere. Anche i batteri e virus possono fare il bello e il cattivo tempo. Dovreste vedere perciò in me un salvatore invece che il vostro becchino. Liberi di non credermi, ma io sono venuto a fermare la macchina della quale non trovavate più il freno di emergenza. Sono venuto a sospendere il funzionamento del quale eravate ostaggi. Sono venuto a rendere manifesta l'aberrazione della normalità. Vedete come faccio sciogliere la lingua e lo spirito dei vostri governanti? Guardate come ne svelo il vero ruolo di miserabili truffatori, per di più arroganti. Per loro, voi non siete altro che supporti alla riproduzione del sistema, cioè ancora meno che schiavi. Persino il plancton è trattato meglio di voi. Guardatevi però da riempirli di rimproveri, di incriminare le loro insufficienze, accusarli di incuria e ancora considerarli più di quanto meritano. Domandatevi piuttosto come voi avete potuto trovare così comodo farvi governare. Che l'uno vi metta al confino nel vostro interesse e l'altro per l'interesse della società vuol dire in ogni caso vanificare la sola condotta non nichilista, cioè il prendersi cura di sé, di chi si ama, di quel che si ama in chi non si conosce. Non lasciate che quanti vi hanno gettato nel baratro pretendano ora di farvene uscire. Non faranno che prepararvi un inferno ancora più perfezionato, una tomba sempre più profonda. Il giorno che lo potranno, faranno pattugliare militari anche l'aldilà. Ringraziatemi piuttosto, senza di me, per quanto tempo ancora, avrebbero fatto passare per necessarie tutte queste cose indiscutibili delle quali si decreta improvvisamente la sospensione. Ringraziatemi per la prova di verità delle prossime settimane. Andrete ad abitare la vostra vita senza le mille scappatoie che bene o male tengono in piedi l'insostenibile. Senza rendervene conto, non avete mai traslocato nella vostra esistenza. Magari vi verrà la voglia di far saltare in aria la scenografia della vostra vita quotidiana. A dire il vero, voi non eravate più al mondo, in queste metropoli della separazione. Il vostro mondo non era più vivibile in nessuno dei suoi punti, se non a patto di doverlo fuggire senza sosta. Bisognava stordirsi di movimento, di distrazioni, per quanto l'orrore aveva guadagnato in presenza e il fantomatico regnava tra gli esseri. Tutto era diventato talmente efficace che niente aveva più senso. Ringraziatemi per tutto questo e benvenuti sulla Terra. Grazie a me, per un tempo indefinito, voi non lavorerete più, i vostri figli non andranno a scuola e tuttavia sarà il contrario delle vacanze. Le vacanze sono lo spazio che bisogna arrogliare ad ogni costo aspettando il solito ritorno al lavoro. Ma qui quello che si apre davanti a voi, grazie a me, non è uno spazio delimitato, è un'immensa apertura. Io vi rendo inoperosi. Niente vi dice che il non mondo di prima tornerà. Tutta questa assurdità redditizia forse finirà. Ringraziatemi, vi pongo davanti al bivio che struttura tacitamente le vostre esistenze, l'economia o la vita. Tocca a voi adesso muovere, la sfida è storica, o i governanti vi impongono il loro stato d'eccezione, o voi inventate il vostro, o vi aggrappate alle verità che vengono a galla, o mettete la testa sotto il pattipolo. O impiegate il tempo che vi sto dando adesso per immaginare il mondo che verrà a partire dalle lezioni del collasso in corso, o quest'ultimo si radicalizzerà sempre di più. Il disastro finisce quando finisce l'economia. L'economia è il disastro. Era una tesi fino allo scorso mese, ma ora è un fatto. Nessuno può ignorare di quanta polizia, sorveglianza, propaganda, logistica e telelavoro avranno bisogno per rimuoverlo. Di fronte a me non cedete al panico né alla negazione. Le prossime settimane saranno terribili, opprimenti, crudeli. Io sono il più catastrofico prodotto della catastrofe che è la produzione. L'ingiustizia di questo mondo urlerà come non mai. È una civiltà e non voi che vengo a seppellire. Quelli che vogliono vivere dovranno costruirsi delle nuove abitudini che gli saranno proprie. Evitarmi sarà l'occasione di questo reinventarsi, di questa nuova arte delle distanze. Non fate questo per gli altri, per la popolazione, per la società. Fatelo per i vostri. Prendetevi cura dei vostri amici, dei vostri amori. Ripensate con loro sovranamente una giusta forma della vita. Fate dei cluster di vita buona, estendeteli, e io non potrò niente contro di voi. Questo non è un appello al ritorno in massa alla disciplina, ma all'attenzione, non alla fine di ogni spensieratezza, ma di ogni negligenza. Che altro modo mi resta per ricordarvi che la salute è in ogni gesto, che tutto è nell'infinitesimale. Mi sono dovuto arrendere all'evidenza. L'umanità si pone solo quelle domande che non può non porsi. Ok. Ok. Allora, aspetterei qualche secondo e chiederei se mi sentite. Tipo prova tecnica in questo secondi prima di iniziare. Se si sente bene, se qualcuno ha voglia di rispondermi e dire se si sente scrivendo. Se mi dite che si sente bene, anche se tipo ho mandato un cuore, perfetto, grazie che mi avete scritto, perfetto. Allora, io inizierei. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. E benvenute, benvenuti e benvenuto a questa puntata di Fuori Classe. E oggi proviamo insieme a parlare di femminismo e tecnologie. O meglio, ci concentriamo in particolar modo sulle tecnologie di comunicazione, internet e media digitali. Lo proviamo a fare interrogando le tecnologie dal punto di vista delle scienze sociali. Dunque, proviamo a rispondere a domande tipo: cosa ne facciamo delle tecnologie? In che modo le persone si appropriano della tecnologia? In che modo le tecnologie media digitali contribuiscono a costruire alcuni ruoli di genere, alcune identità di genere oppure altre? Pensiamo anche a come stiamo usando Instagram oggi, no? È un modo di appropriarci di un mezzo che può potenzialmente avere differenti fini, ha una sua specifica architettura, ma allo stesso tempo le persone, i movimenti politici possono appropriarsi di queste tecnologie e farne degli usi specifici. Per cui oggi proviamo a vedere insieme quali strumenti possiamo mettere in una cassetta degli attrezzi per capire anche quali riflessioni il femminismo ha fatto sulle tecnologie, come ha usato le tecnologie in modo politico, in modo critico, anche partendo magari dall'esperienza che stiamo facendo di fuori classe su Instagram. Oltre appunto a provare a considerare come le tecnologie contribuiscono a costruire alcune identità di genere piuttosto che altre, proviamo anche a pensare alle tecnologie non a come delle scatole chiuse, delle black box in cui non possiamo entrare e capire come funzionano, ma piuttosto come ci insegnano gli studi femministi sulle tecnologie, su internet, sui media digitali, alle tecnologie come il risultato, l'elaborazione di relazioni sociali. E quindi cerchiamo di studiarle, di capirle, di aprire quella scatola nera e identificare quali relazioni di potere portano con sé. Come le possiamo appropriare? È sicuramente un tema ampio e noi oggi, nel tempo che abbiamo, proviamo a guardarla da alcuni angoli differenti per darvi degli esempi di come le scienze sociali, e in particolar modo la sociologia, hanno studiato, i media digitali rispetto alle relazioni e ai rapporti di genere. E anche come i movimenti femministi hanno abitato in modo critico e politico il rapporto tra tecnologia e relazioni di genere, vi faccio degli esempi di appunto nesso, relazione tra genere e tecnologie. Per esempio, uno dei grandi temi che le studiose femministe hanno affrontato è quello dell'accesso alle tecnologie, chi accede alla tecnologia, chi è connesso alla rete e quindi per esempio il tema del digital divide che può essere considerato sia in termini di accesso alla rete, chi ha materialmente accesso alla tecnologia, ma anche in termini di competenze, una volta che siamo connesse, come usiamo la rete, quali strumenti e quali risorse abbiamo per usarla in modo critico e in modo politico. Un altro tema che gli studi femministi sulla rete hanno esplorato è quello delle possibilità di sperimentare con l'identità, con la politica negli spazi online. E poi un altro grande tema è quello dell'uso da parte dei movimenti femministi della rete come spazio di connessione, come spazio pubblico in cui condividere soggettività politica, esperienze in contesti che permettessero una maggiore libertà di parole in alcuni contesti rispetto a altri tipi magari di media che non permettono al sapere femminista di avere uno spazio e una rappresentazione. Nel tempo che abbiamo vorrei per cui condividere con voi più o meno tre grandi punti. Il primo è quello che il sapere femminista ci dice rispetto al fatto che le tecnologie non sono uno spazio neutro. Cosa vuol dire che le tecnologie non sono uno spazio neutro? Che sono attraversate da rapporti di potere, anche da rapporti di potere che si costruiscono in base al genere. E quindi internet, i media digitali, non dobbiamo mai pensarli come uno spazio che si suppone essere neutrale, perché dove di solito il femminismo ci insegna, dove si pensa che ci sia neutralità, tendenzialmente si nasconde una norma, e il femminismo ci insegna che la norma è quella eteropatriarcale, bianca, abile. E quindi prima di tutto gli studi femministi sulla rete cosa ci insegnano? A guardare i rapporti di potere che si costruiscono, per esempio online o attraverso la rete, ricordandoci che dove si presume ci sia una neutralità spesso si nasconde una norma che nasconde una gerarchia, quindi smontare le gerarchie. Poi guardiamo insieme, nel tempo che abbiamo, alcuni movimenti politici, artistici, che hanno abitato criticamente gli spazi della rete, provando a farne uno spazio di sperimentazione con le identità, e proveremo a capire insieme cosa vuol dire studiare con lo sguardo femminista la rete oggi, dopo che sono passate un po' di anni da quando le prime cyberfemministe facevano le prime incursioni online cercando di giocare con le proprie identità. Allora, come dicevamo, le tecnologie, gli studi femministi sulle tecnologie ci dicono che le tecnologie sono uno spazio politico e non sono uno spazio neutro, al contrario. Hanno messo in luce come le tecnologie devono essere pensate come lo scontro di rapporti sociali. Chi produce le tecnologie? Chi le usa? Chi ha spazio di parola? Chi viene rappresentato? Sono tutte domande politiche che gli studi femministi ci invitano a porci quando usiamo la rete, quando la guardiamo, quando l'abitiamo, sia nel quotidiano sia politicamente. Se da un lato infatti le tecnologie media digitali possono aiutare a costruire nuovi spazi di espressione, dall'altro lato i media digitali e le tecnologie possono riprodurre dei discorsi che sono i discorsi che abitiamo tutti i giorni, che il regime di genere retropatriarcale in cui siamo immerse sostiene quotidianamente. Per cui dobbiamo sempre chiederci dove siamo, ci invitano, gli studi femministi ci invitano a domandarci dove siamo, chi utilizza la rete, come la sta utilizzando, quale spazio di parola si produce negli spazi online. Facendo un po' di semplificazione, di cui mi scuso tantissimo, però cercando di stare nei tempi che abbiamo, possiamo dire che c'è tutto un pensiero femminista molto complesso, molto ricco, che in qualche modo ci invita a ripensare il pensiero stesso con cui guardiamo la tecnologia. E quindi interviene proprio sul piano epistemologico, sul piano della conoscenza. E in qualche modo penso a studiose di cui magari avete anche già tutti sentito parlare, come Donna Haraway, che ci invitano in qualche modo a ridefinire i criteri attraverso cui guardiamo le tecnologie, attraverso l'idea dei saperi situati, per cui noi come soggetti da quale parte del mondo stiamo guardando le tecnologie, noi come soggetti che produciamo discorsi di tecnologie come lo stiamo facendo, ma anche questo epistemologie femministe che indagano le tecnologie e la rete in qualche modo ridiscutono, qua siamo su un piano molto astratto, cos'è l'essere umano stesso, cosa sono le soggettività politiche stesse nel rapporto con le tecnologie, ridefinendo, pensiamo al cyborg di Donna Haraway, i propri confini dell'umano nel rapporto con le tecnologie, dove il rapporto con le tecnologie può essere anche un rapporto che produce nuove relazioni e sfida le relazioni di dominio. Nel rapporto con la tecnologia possono essere, per esempio, messi in discussione alcuni modi di pensare binari, alcuni modi di pensare dicotomici, no? Essere umano macchina, animale umano. E quindi c'è tutto un ricchissimo pensiero femminista che ridefinisce e cerca di ridefinire proprio lo sguardo attraverso cui noi guardiamo alle tecnologie e i confini a cui siamo abituate a pensare tra corpo e tecnologia stesso, ridefinendo proprio l'idea di umano e in qualche modo cercando un po' di decostruire le dicotomie con cui di solito siamo abituate e abituati a guardare il mondo. Penso appunto a Donna Haraway, a Catherine Hale, a Rosie Braidotti. E non abbiamo adesso tantissimo il tempo di approfondire, però questo è un piano della discussione. Poi, come vi anticipavo, abbiamo un altro piano che si nutre di questo pensiero teorico che abbiamo proprio un po', e mi scuso ancora, molto superficialmente toccato, che si nutre di questo pensiero teorico e però lo mette un po' in pratica, insomma cerca di usare per esempio il cyborg di Donna Haraway in termini più concreti per provare ad abitare internet e i media digitali in modo critico e politico, e faccio per esempio riferimento al cyberfemminismo. Cyberfemminismo, faccio riferimento in particolar modo al cyberfemminismo, nei primi anni 90 del Novecento, in cui per le artiste, ricercatrici, studiose, attiviste cyberfemministe la rete è uno spazio di sperimentazione. E quindi invitano a usare internet e la rete come spazio politico, suggerendo che praticando in modo critico il rapporto con la rete, noi si possa sperimentare delle nuove identità di genere, delle nuove sessualità. In qualche modo online, guardando al cyberfemminismo degli anni 90, possiamo pensare che in qualche modo ci sia uno spazio per sperimentare con noi stesse attraverso gli avatar, attraverso la sperimentazione per esempio di forme di costruzione di noi stessi online differenti da quelle che sono le esperienze che la vita offline invece ci impone di vivere. E quindi cosa dicevano le cyberfemministe? In qualche modo online possiamo slegarci delle costrizioni del corpo, della vita di tutti i giorni, della materialità del corpo e provare a sperimentare identità nuove, sessualità nuove nella fluidità della rete, sperimentare un'idea fluida di genere, sperimentare un'idea fluida di corpo. In qualche modo si faceva riferimento a una dimensione disincarnata dell'esperienza online, no? In cui si lasciavano i segni del corpo fuori dalla rete per in qualche modo invece sperimentare delle nuove identità. Lì le categorie di reale e virtuale funzionavano meglio di forse come funzionano oggi, perché oggi, poi lo vedremo, in qualche modo è più complesso pensare, no, di abitare la rete senza i segni del corpo. Pensiamo a tutti i social media che invece ci chiedono, no, di abitare la rete con le foto della nostra vita di tutti i giorni. È difficile mascherare o giocare o ridefinire i tratti corporei, per esempio al tempo dei social media, ma il primo cyberfemminismo di cui vi ho parlato fino ad ora viveva in un contesto molto differente, in cui internet non è ancora quello del web partecipativo e permette uno spazio di gioco con l'identità, di anonimato, di creatività molto ampio. Tuttavia dobbiamo considerare che appunto il rapporto tra femminismo e tecnologie si nutre, tra le varie cose, dell'evolversi delle tecnologie e dell'evolversi del pensiero femminista. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'evolversi delle tecnologie, appunto le prime incursioni artistiche, creative e politiche delle cyberfemministe sulla rete avvenivano in un internet differente da quello che conosciamo oggi. Infatti internet e media digitali si sono trasformati e il web partecipativo permette un altro tipo di interazione, i social media chiedono in qualche modo di appunto produrre immagini di noi nella vita di tutti i giorni e quindi in qualche modo spingono a una normatività, se vogliamo dirla così, cioè ci chiedono di aderire alla nostra identità online con i tratti della nostra identità offline. Non è obbligatorio, ci sono tanti modi per giocare con questo, ma in termini generali sicuramente alcune cose possiamo definirle così, come un po' una spinta a normalizzare di alcuni social media, di alcuni social network. Per questo, per esempio, Gajala e O, che sono due studiose femministe che indagano la rete, scrivono di cyberfemminismo 2.0. Perché scrivono di cyberfemminismo 2.0? Perché appunto si pongono delle domande che stiamo ponendo noi oggi. Ma cosa succede alla creatività, alla possibilità di sperimentare con le identità, quando il web è un po' cambiato, i social media ci chiedono sostengono delle interazioni diverse, in cui online e offline sono molto più intrecciati, la nostra vita in qualche modo è difficile immaginarla come se ci fossero due spazi completamente distinti, il mondo online e il mondo offline, quindi anche quell'idea di gioco, di sperimentazione con le identità si fa un pochino più complesso, e queste autrici si pongono per esempio tre domande, si chiedono che fine fa la creatività nel contesto del web partecipativo e dei social media, poi si chiedono quali spinte maggiori esistono di controllo e alla normazione delle identità, quali forme di tracciamento, di tracciabilità delle identità, quale richiesta di aderire appunto all'identità offline, che conseguenze ha, sapendo che nella vita offline non tutti i corpi hanno legittimità di essere visibili, non tutti i corpi hanno la possibilità di espressione come gli altri, quindi quando questa norma si riproduce sulla rete che conseguenze ha? E poi queste studiose femministe si fanno anche un'altra domanda, che è quella: che rapporto c'è tra il nostro cercare di abitare la rete politicamente e il mercato? E anche questa è una domanda molto interessante, perché in qualche modo ci dicono loro? Mai come oggi la costruzione delle nostre identità di genere, i nostri gusti, i nostri costumi, la nostra possibilità di parlare, la nostra possibilità di azione, potremmo dire, si intreccia con le regole del mercato, e col neoliberismo, ci dicono queste studiose. Quindi si fanno una domanda anche molto ampia, però si chiedono: quali sono gli spazi di azione quando quello che produciamo anche online, anche di liberazione, può immediatamente essere in qualche modo ripreso e riutilizzato dal mercato? E questa è sicuramente una domanda cruciale che però la lasciamo aperta, ma la potremmo riprendere più avanti, ma quello che è importante che le due studiose che ho citato ribadiscono è che le azioni dei nostri corpi e delle nostre identità negli spazi della rete sono fortemente influenzati ora con le politiche e il potere delle politiche offline. Allora, scusate perché ogni tanto chiedono di partecipare e io faccio così. Ok, scusatemi. E su questo, sulle caratteristiche della rete oggi, questo intreccio tra politica online e politica offline, e volevo parlarvi di un'altra autrice, che è Dana Boyd, che in italiano ha scritto un libro che è interessante, io lo suggerisco perché in italiano è It's Complicated, la vita sociale degli adolescenti sul web. Perché è interessante lei? Perché lei ci invita a pensare a internet con una prospettiva sociomateriale. Cosa vuol dire? Quando come femministe, transfemministe, ci approcciamo alla rete, dobbiamo considerare sia quali rapporti sociali sono esistenti, le domande che ci facevamo prima, chi usa la rete, come la usa, quale spazio di parola c'è, chi viene sanzionato se parla online, quali tipi di censura c'è, ma anche la materialità, in quali spazi ci muoviamo. Ora siamo su Instagram, Instagram abilita un certo tipo di comportamenti, disabilita altri, per cui c'è una forte componente visiva, adesso c'è lo streaming che ci permette di fare questo confronto. Non tutti gli spazi online hanno le stesse caratteristiche, per cui Boyd cosa ci dice? Consideriamo sia gli aspetti più concreti materiali Per cui diremmo, se usassimo una metafora spaziale, oppure se immaginassimo cosa vuol dire fuori dalla rete, è come è fatta una piazza quando noi ci raccogliamo? Ci sono delle panchine in cui ci possiamo sedere, ci sono degli spazi in cui possiamo fare un'assemblea, ci sarà qualcuno che ci controlla. Ecco, in qualche modo avere un approccio sociomateriale alla rete ci dice, boh, ed è chiederci cosa possiamo fare, qual è l'architettura di questi spazi, cosa ci permette di fare. Infatti Bod ci dice, soprattutto analizzando i social media e i social network, ci dice, allora sono degli spazi che fanno sì che si creino delle specifiche dinamiche sociali, no? E dice, in particolar modo ci sono dei pubblici connessi, e questi pubblici connessi interagiscono in un modo specifico. Perché? Perché i contenuti sulla rete hanno delle caratteristiche. Per esempio, lei ci dice quello di quanto un contenuto rimane online, per cui la persistenza, la replicabilità, la scalabilità, la ricercabilità. Considerare che i contenuti che produciamo sulla rete poi hanno delle caratteristiche specifiche. E poi ci dice anche in qualche modo quelli che si costruiscono online sono dei pubblici, inteso degli spazi pubblici come quelli che noi abitiamo politicamente fuori della rete. E dobbiamo ricordarci appunto che questi spazi pubblici della rete hanno delle caratteristiche specifiche e che possono però, e questo è importante, essere negoziate. Che un movimento politico sociale transfemminista scelga di utilizzare Instagram per parlare di tecnologia e femminismo probabilmente non è esattamente la prima idea con cui è stato costruito Instagram. Per cui c'è anche un piano di riappropriazione, per cui se è vero che noi possiamo pensare che c'è un'architettura che abilita o disabilita un certo tipo di comportamenti, dobbiamo pensare anche che poi gli spazi possono essere riappropriati. E riappropriandoci di questi spazi si possono produrre delle nuove narrazioni, delle nuove, qualche modo, soggettività. Allora, cosa ci dice Boyd insieme a tante altre studiose femministe? Consideriamo sempre che quello che avviene negli spazi della rete è fortemente influenzato dagli spazi offline, e noi questo lo sappiamo, per cui in qualche modo quello che gli studi femministi contemporanei, i transfemministi contemporanei sulla rete e i media digitali ci dicono, internet è uno spazio ambivalente, ok? È uno spazio ambivalente, possiamo dire, dove da un lato si possono produrre degli spazi di espressione, possono avere spazio dei progetti che sui media tradizionali non potrebbero mai avere voce. Pensiamo al progetto Obiezione Respinta, quanto è importante lo spazio della rete, che può connettere, utilizzare una delle dimensioni importanti della rete dal punto di vista della connessione, cioè mettere insieme le persone, rendere le persone anche capaci di prendere parola, e quando questo avviene costruire anche, quando questo avviene dentro un discorso femminista, costruire uno spazio safe dove le persone possono discutere, condividere sapere. Allo stesso tempo l'ambivalenza della rete vuol dire anche che internet può riproporre un regime di genere eterosessista, eteropatriarcale. Pensiamo al tema della violenza di genere online, del cyberstalking, del doxing, di tutti quelli, delle molestie online. Chi studia la violenza di genere sulla rete mette in luce come quella dimensione, la violenza che avviene sugli spazi della rete, vada ricondotta comunque al discorso eterosessista, patriarcale, che è matrice della violenza di genere, che abitiamo anche negli spazi offline. E qui ancora una volta sono importanti gli studi femministi sulla rete, perché ci invitano appunto a ragionare utilizzando non più categorie come, come reale o virtuale, che forse ora non sono più strumenti concettuali, ci dicono così utili per capire il rapporto che noi abbiamo con i media digitali, ma piuttosto parlare di online e offline. Se ricordiamo, le cyberfemministe negli anni 90 dicevano: ci spogliamo dei tratti, corporei materiali per abitare la rete in modo fluido, sperimentare nuove sessualità e nuove identità di genere. Ecco, oggi è difficile pensare a quella dimensione disincarnata con cui abitiamo la rete. Abitiamo la rete, ci dicono le studiose transfemministe, che guardano internet e i media digitali anche con i nostri corpi. E quindi, come sappiamo, nella vita di tutti i giorni, nelle strade, nelle spiazze, i nostri corpi sono sanzionati quando non aderiscono alla norma. E vi ricordate cosa abbiamo detto prima? Interrogare le tecnologie dal punto di vista delle scienze sociali vuol dire anche chiedersi: questa presunta neutralità quale norma nasconde? Allora, se i nostri corpi sono sanzionati nella vita di tutti i giorni, ecco, questo si riproduce nella rete con delle sue caratteristiche specifiche, ma in qualche modo il regime di genere che noi abitiamo tutti i giorni va criticato, osservato e legato a quello che succede anche nella rete, considerando che sulla rete ci possono essere sia spazi di espressione, sia degli spazi invece in cui si riproduce la violenza. Penso che per arrivare verso la fine, perché credo che non mi manchi tantissimo, e chiedo anche a voi se però ci sono delle domande che volete scrivere o qualcosa che non è stato chiaro di quello che ho detto. Mi spiace, ma ho compresso tantissimo, avevo paura di non stare dentro. Se vi vengono delle domande, credo che abbiamo ancora qualche minuto e quindi in realtà possiamo parlarne, e con piacere, così possiamo utilizzare l'interazione. Io volevo consigliarvi intanto nel frattempo anche un paio di testi. Allora, ho citato Donna Haraway, e Feltrinelli ha adesso ripubblicato Manifesto Cyborg, Donne, Tecnologie e Biopolitiche del Corpo, che purtroppo non ho qui materialmente in questo momento di autoisolamento, per cui sennò vi avrei letto delle parti, ma lo suggerisco. E poi uno degli ultimi numeri di WWF, la rivista femminista, che è uscita con Femministe, Corpi nella Rete, con contributi di singole collettività che proprio cercano di riflettere nella contemporaneità su quello che è il rapporto tra femminismo e tecnologie, utilizzando alcune delle chiavi che abbiamo utilizzato oggi. Qual è la tensione? Fino a che punto siamo liberi di intervenire sulla rete, di sperimentare, dove invece la norma si riproduce? E questi possono essere dei testi che possono un pochino a suggerire alcune piste di lettura, sia Haraway sul piano più epistemologico ampio, che avevamo approcciato all'inizio con molta semplificazione, sia sul piano delle pratiche reali femministe, dell'abitare criticamente la rete come soggettività politiche, nel numero di WWF, in cui sono collettività e soggettività politiche stesse che, a partire, come ci inviterebbe Haraway, dai saperi situati, dal sapere che dalla consapevolezza che il sapere che produciamo è situato in un determinato contesto, producono della conoscenza sul rapporto tra femminismo e tecnologie a partire dalla pratica. E se non ci sono delle domande o delle altre curiosità, penso che in realtà il tempo sia finito, e quindi vi lascio con questi testi e magari ci sentiamo un'altra volta per approfondire alcune delle cose trattate. Grazie mille, e a domani per l'altra lezione. Ciao.